l'aggettivo è mandare in merda la vostra televisione, come cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivo! Certo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Le grandi inchieste della zanzara, caro Parenzo, le grandi inchieste della zanzara. So che hai un ospite molto importante lì, però aspetta. Di alto lignaggio. Però aspetta, aspetta. Che aspetta. Ha a che fare con le inchieste. Ha voglia. Adesso poi lo presentiamo. Però ti presento le grandi inchieste della zanzara. Ovviamente riguardano il cane preferito dagli italiani, no. Cioè Dudu. Dudu. Signor Dudu. La prima cosa è questa. Signori miei, è davvero alla Maison du Relax, forse anche lui a fare la dieta insieme al padrone Silvio e alla padrona Francesca? Sì o no? Perché qui c'è una ipotesi di discriminazione degli altri. Sentite cosa ci ha detto ieri la centralinista della Maison du Relax. Non sono ammessi animali. Invece tutti dicono che Dudu è stato portato dentro la clinica. Una cosa tremenda, la clinica la 3 giorni per dimagrire. Sentiamo. Ma e posso portare un cane io? Perché so che Dudu forse viene. Io ho il mio. Posso non sono ammessi animali. A Fufu non può venire quindi? Nessun animale è ammesso. Ma non è che poi trovo Dudu però lì? La Maison du Relax non sono ammessi animali e bambini fino ai 12 anni. Anche questi bambini? Sono i vincoli. Animali e bambini anche? Fino ai 12 anni. Ma ragazzi, a parte avete sentito la voce di questa qua? Non sono ammessi i bambini fino ai 12 anni. Non sono ammessi i cani. I bambini fino a 12 anni. Una specie di lager nazista questo qua. Dove va Berlusconi? Sai che? No, perché qualche volta le cliniche per dimagrire sono dei lager, sono dei veri e propri lager. Ma è un tema di. Lo vedo. Vabbè, insomma. Tema di grandissima. Sono ammessi gli animali, è stato fatto un favoritismo nei confronti di Berlusconi alla Maison du Relax. I clienti di questi centri potrebbero arrabbiarsi. Da notare che ho detto arrabbiarsi, non incazzarsi, eh? Ma il secondo grandissimo giallo è questo. La cagnetta della Biancofiore, Puggy, è rimasta incinta oppure no? Perché Dudu pare aver colpito nel segno. Ragazzi, non sono cose che ci siamo inventati noi. Vi assicuro che sono state dette qui alla zanzara dai protagonisti, deputati, onorevoli, politici. Biancofiore cosa ha detto? Che insomma, Dudu è innanzitutto un maschio, non è gay per niente. È uno che ha visto pure l'erezione. Ha detto urca? Urca? Che erezione? Dobbiamo sentire l'urca quando gli ho chiesto questa cosa qui. È normale che ci provi, voglio dire, quella è femmina, pure figa, tra l'altro ci ha provato, vuol dire che il cane, ecco, vi rispondo così, il cane, vi posso assicurare che Dudu non è assolutamente gay, questo ve lo posso assicurare minimamente. O lei l'ha visto in erezione, diciamo. Orca. Si è accoppiato o no? Con onorevole Biancofiore, questo va ricordato sempre. Si è accoppiato o no con la cagnetta della Biancofiore? Ce l'ha fatta o no? Non credo, adesso lo vediamo tra qualche mese. Spero di no, perché adesso non posso. No, credo di no, spero di no per il semplice fatto che poi, come si sa, la femmina sta a casa con la padrona e si tiene anche i cuccioli per 3 mesi e avrei dei seri problemi visto che vivo da sola. E sentiamo Renzi che dice: vabbè, allora se volete risolvere voi, chiamate Goldrick, eh? Chiamate Goldrick. Se dice, hai fatto tutto questo, però fai le primarie anziché le preferenze, io preferivo le preferenze. Oh, vabbè, ragazzi, chiamate Goldrick. Chiamate Goldrick. La leggenda la domanda lui, finale di Cacciullo era. Più sì. Di così non poteva arrivare. Sì. Poi dice, basta col ricatto dei partitini. Poi se la prende con Scelta Civica, con l'1%, che sono i sondaggi, però, in realtà, eh. basta al potere di ricatto. È vero che potreste cedere, cioè con Scelta Civica con l'1%, diciamo la verità, non va da nessuna parte, eh? No, infatti. Cioè Scelta Civica deve capire se sta al governo per diventare come uno dei partitini della prima Repubblica. A me, il Renzi decisionista che dice i partitini non devono rompere i coglioni, anche se poi in realtà i partitini potrebbero trovarseli anche all'interno del Partito Democratico, le correnti, eccetera. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. A me un Renzi decisionista piace, è in realtà una novità nel Partito Democratico, dove non sono abituati ad avere uno che decide e dice o così o pomì. Sono abituati ognuno a trattare le proprie cose e ogni segretario dava un contentino a tutti. Vabbè. Renzi, Berlusconi è legittimato politicamente. So già che il tuo ospite là su questo, caro David, su Berlusconi legittimato politicamente, potrebbe dirci qualcosa molto di interessante. Tra poco, è carichissimo, sta scrivendo, verbalizzando tutto, Le regole si scrivono insieme all'avversario politico. Le regole non si scrivono contro l'avversario politico. Dice, ma Berlusconi ha avuto i suoi problemi e condannato. La vicenda giudiziaria riguarda Berlusconi. La legittimazione politica non la do io. Io non mi scelgo gli avversari, mi scelgo i miei amici. Questo è importante. La scrittrice, filosofa, professoressa, non so che cosa, De Monticelli, dice: beh, ma la questione del legittimato politicamente non vuol dire niente. Anche se anche Rina potrebbe prendere i voti ed essere legittimato politicamente. Cioè Berlusconi uguale Rina, dice la De Monticelli. Contro i mostri. Quindi ha fatto male secondo lei? Allora, se Rina avesse molti voti politici, con lo stesso criterio, perché delegittimarlo? È semplicemente un avversario politico, no? Ai voti. Non me moleste moschi. E chiudiamo con due ex, non dico amici, ma persone che sono state scelte. Ma lui si è già pentito più volte, dall'Italia dei Valori, ex dell'Italia dei Valori. Partiamo con Scilipoti, perché parliamo di che cosa? Dell'abolizione del Senato, Sia Razzi che Scilipoti sono contrari all'abolizione del Senato, ovviamente perché stanno al Senato, non per altro, insomma. Partiamo da Scilipoti. Cioè, vuole il mio parere? Eh sì. Secondo me il Senato non andrebbe abolito. Rischia di fare l'ennesima dichiarazione pro casta così. No, perché protesta? Quindi bocciata, diciamo, l'accordo Berlusconi-Renzi? No, completamente no. Non me moleste moschi. Ed è con noi dagli studi di Roma Antonio Di Pietro, presidente dell'Italia dei Valori, buonasera. Uè, io sto qua. Come andiamo? Uè. Carichissimo. Ognuno c'ha il cane che si merita. A me ieri, siccome io ho un paio di pastori tedeschi di sti tempi, sì. Ieri ne ha fatti sei la mia. Ah, cioè, e che ci fa così? Che ci fa così? L'accoppiamento c'è stato a suo tempo. Ieri ne ha fatti sei. Ah, ha partorito? Ne ha fatti sei. Ma che ci fa così sei? Che ci fa così sei? Spero l'Unione fa la forza di sti tempi. Ma ieri i pastori tedeschi. Ne regali uno a Berlusconi, no? I cani lecca-lecca, io non so che farci. Ma qual è? Dudu è lecca-lecca? Dudu è un cane lecca-lecca? Beh sì, certo, nei confronti del pastore rispetto al pastore tedesco, no? Allora credo che no, scusi un attimo, perché non ne regala uno a Berlusconi, così fa una bella accoppia, si accoppia con Dudu, ce n'ha uno femmina? Ne ha fatti quattro maschi e due femmine, già tutti quanti sono stati prenotati come regali agli amici, a Berlusconi, quello è capace che poi se, non dico a quali amici, non vorrei che vada a comprarsi pure questi. Ma come si è comprato il voto, cazzo. che mi capita qualche cane di De Gregorio, cazzo, alla De Gregorio Manere, voglio dire. ma scusi un attimo, ma che voti si è comprato? Lei dice i voti dal Senato. Li ha comprati i senatori, si è comprati i senatori. Senta Di Pietro, adesso parliamo di una persona che lei oggi è andato, oggi o ieri, non so quando è andato a... Senti, a proposito, voi ogni volta raccontate questa storia di Lazio e Scilipoti, fate bene. Qualche volta mi fate un favore, andate a suonare al campanello di Caleario, che è lo stesso giorno che ha tradito l'Italia e i Valori, Razzi e Scilipoti, l'ha tradito Caleario, alzo 150. Caleario che stava bene, perché ha tradito E se n'è andato a votare a favore del cavaliere. Perché nessuno a quello gli fa il culo così? Quell'affare no, ma gliel'hanno fatto Di Pietro il culo, non è che non gliel'hanno ma fatto. Ma non mi dire niente, se non te lo ricordavo io te lo devi pure scordare. No, ma come non me l'ero scordato? Guardi che Galeano sei un renziano pure tu. Ma l'hanno rovinato, l'abbiamo rovinato noi Galeano con quelle cose sul mutuo, e a noi ce lo viene a dire. Ma Galeano è stato... Salutamelo quando lo incontri. Scusami un attimo Antonio, però adesso diamoci del tu. Scusami un attimo, ma vabbè, tutti ricordano Razzi e Scilipoti perché quelli stanno ancora al Senato, mentre Galeano non si è più candidato. Non c'è più, sai qual è la certo, Galeano non ci sta più perché evidentemente quelli che devono essere più fessi sono riusciti pure a prendere il corrispettivo. Chiamalo Fessi. Scusa, ma non vuoi, hai già chiesto scusa più volte, no? Però tu hai il grande merito anche per Crozza di avere scovato un personaggio ormai televisivo, cioè, perché Razzi ormai è veramente un personaggio televisivo, cioè, è un personaggio che spopola. Dovrebbero pagarti i diritti per Razzi. Da Razzi mi faccio infaridare il tuo storto. Non è diritto, cioè diritto è dietro. Non ho capito. Che sta parlando in molisano? In abruzzese. Però guarda, adesso voglio dire, per l'amor di Dio. In quelle elezioni, con le elezioni precedenti, se c'era un voto che le preferenze è quelle degli italiani all'estero, di Razzi con le preferenze. Sì, se le prese. Allora, lo sapete come se le prese, no? Perché è scattato il voto all'Italia dei Valori. Sì. Io mi sono trovato, perché facevo il parlamentare europeo, andavo a Strasburgo, quindi mi sono fermato a Lucerna, dove tutti mi hanno accolto per quel che ero, come riconoscevo, ex magistrato di Mani Pulite. E io ho detto, forza, mettetevi pure voi, siete in una fabbrica, avevo fatto questa manifestazione. C'è sta qualcuno che ci vuole, si mette in gioco, come ti chiami tu? Antonio Razzi. Forza, candida. E come si fa? Ecco, tutti voi lo volete? Scrivete Antonio Razzi, l'avessi mai fatto che si è ritrovato parlamentare. Cioè, lei ci sta raccontando che si è trovato per caso in una fabbrica a Losanna. No, voglio dire, stiamo parlando di una persona che faceva l'operaio, che è stato votato con le preferenze e che io non ho candidato un delinquente, ho candidato un operaio che dovrebbe baciare per terra ogni volta che mi incontra. E invece? Adesso bacia Berlusconi. Allora, torniamo, che ci deve rivelare che cosa è uscito fuori da questo suo, come lo possiamo chiamare, perché è tornato a fare un po' il magistrato nel frattempo prima di ricandidarsi. Ha avuto questo colloquio riservatissimo con Carmine Schiavone, il pentito della camorra, che però è diventato ormai una star televisiva. Pure ieri era in televisione, è stato già da Santoro, eccetera eccetera. Però non ti vergognare, Parenzo, fai sentire anzi a Di Pietro come lo imiti ogni tanto qui alla Zanzara. Fagli sentire. Noi dai i valori, Carmine Schiavone, l'ho incontrato direttamente nel pendio di Camorra. Carmine, dove dare valore, abbiamo detto che Cruciani è un cretino. L'abbiamo detto mille volte che Cruciani è un cretino. Com'è? Non c'è bisogno che viene ospite a verbale. Qua. Senta, Di Pietro, allora, però, per essere seri, lei ha incontrato il pentito di Camorra a Carmine Schiavone, no? Per sapere dove sono stati sotterrati i rifiuti tossici, se ne è parlato, eccetera, eccetera. È venuta fuori però una cosa incredibile che noi possiamo proporvi in esclusiva, perché la cassetta è stata consegnata ai magistrati. Mi corregga, verrà consegnata. Però possiamo prendere di questa cassetta, che è un lungo colloquio di Di Pietro con il pentito Carmine Schiavone, un pezzetto in cui viene fuori che cosa? Viene fuori che nel mirino della camorra, della criminalità, adesso Di Pietro brevemente ce lo spiegherà, 20 anni fa, durante Mani Pulite, all'inizio di Mani Pulite, non so quando, c'era proprio Di Pietro, cioè volevano ammazzare Di Pietro. Sentiamo. Eri arrivato ai banche e tu eri arrivato allo Stato, tutta la compromessa di New York, la stavo Vaticano in pieno, là ci stava a banca privata, Vaticana, a banca popolare, le cose che poi era solo come prestanome che passavano su lì i soldi, perché lì poi arrivavano i soldi sporchi, ricordi un sequestro di 10 metri cubi di olio in Inghilterra, e quando io accuso Di Carli che aveva ucciso a Calvi. Perché ti guarda, ormai però non ci siamo venuti da me, no, guardate, che ti ha fatto? Una cosa, scusi, non sono cose su cui ridere, però avete parlato praticamente tutto, si è trattato tranne che di un colloquio in italiano. Scusi Di Pietro se glielo dico. Si capivano. A proposito di questo, siccome una delle accuse che hanno fatto a me è che io avrei fatto Mani Pulite su ordine degli americani. Sì, me lo ricordo. Io quando mi hanno fatto questa accusa, a un certo punto chi mi ha interrogato quando mi hanno indagato per questo, e ho risposto: ma sì, in Giazzecca manca a parlare italiano, che lingua ho parlato con gli americani? Allora mi ha detto: quelle ti assolvo. Scusi, ma davvero, allora, che, seriamente, davvero le ha detto Schiavone? Non che... so. Non so se avete sentito l'ultima parte quando io rispondo a Schiavone in lingua diciamo così, di Pietrese. Di Pietrese, sì. Di Pietrese. Cosa dico? Ma tu non ci sei venuto da me. Perché... Cioè non ci siete arrivati, non ce l'avete fatta? No. No. Lui stava raccontando che stavamo parlando lì, si stava parlando di una cosa molto semplice. Sì. All'epoca nell'inchiesta Mani Pulite noi avevamo scoperto una cosa che fu in realtà era già in un verbale di un imprenditore importante milanese che cominciò a parlare mentre suonavamo al citofono, già cominciò a confessare. Sì. A un certo punto, allora io ho cominciato da Udine a venire giù tutti gli appalti che faceva lui. Siamo arrivati al sud, no, qua non parla. Come non parla? Perché? Perché, amico mio, fino a quando tiro dentro i politici, che mi importa? Al massimo prende qualche anno in più. Se vado nel sud dove c'è sta la criminalità, lui si riferiva espressamente a Cosa Nostra, là c'è sta qualche colpo di. Ma insomma, che gli ha detto Schiavone? Che la volevano ammazzare? In definitiva, si ha detto che voleva far fuori. Ma che stavamo dicendo? Ma chi la voleva far fuori? La criminalità organizzata? Non fa lo PM, lo so faccino tu. Ma come lo fai tu? Qui lo faccio io il PM, no? Ma io sono, devo stringere. In che senso? No, nel senso che devo riportarla all'ordine. No, la riporto all'ordine. Mi ricordi quando stringevo, mi dicevano che stringevo le manette. Ah, no, la riporto all'ordine. La riporto all'ordine. Allora, tu non ci sei venuto da me perché? Perché lui in quel periodo veniva sottoposto a interrogatori, però non è venuto a farsi interrogare da me. Allora, siccome stava raccontando tutte queste storie, si stava lamentando con me perché non avevo chiuso il cerchio su una serie di fatti gravissimi. E io gli ho risposto in Di Pietrese: ma tu non ci sei venuto da me, perché non sei venuto da me? Ah, se veniva da me, sì, gli facevi il culo a cucì. Ti facevo però, un culo. Ma però insomma, alla fine è che la volevano uccidere. Ecco, chi ti voleva ammazzare? Antonio? Lui ha raccontato questa storia. Sì, ha raccontato questa storia. Di questo qui mo vedrà il magistrato quanto di questo ci sarà. Sì, di ma chi vero, la camorra, cosa nostra. Vabbè, volevano ammazzare Di Pietro. In che anno? 92? C'era un piano, piano per un attentato? 92. Che c'era? 92. Uno dei a quel tempo io ero uno dei tanti che volevano far fuori. Va bene, perché non fai lingua? Perché non come Berlusconi non fai lingua in bocca pure tu con Renzi? È perché io sono maschietto. Beh, che vuol dire? Invece Berlusconi e Renzi cosa? Qualcuno c'ha i denti rifatti. No, però che impressione ti hanno fatto? Guarda, adesso andando dalla battuta a parlare seriamente. Io credo che quel che ha fatto Renzi era un passo necessitato, perché poi alla fine quando dice le regole si scrivono insieme con gli avversari politici dice una cosa giusta. Quel che io non condivido è il lecca lecca che hanno fatto successivamente, quando cominciano a parlare di come hanno detto, sì, lui ha detto che cosa voleva... ha detto Renzi, sì, ha detto sintonia profonda, sì, sì. Quando hanno cominciato uno a fare libellab dell'altro, cioè una cosa è un accordo, cioè, politico, sembra che sono andati a letto, dice lei. Ma di più. Di più, addirittura. Abbia pazienza. Cioè, c'è stato anche il coito. Abbia pazienza. Che senso ha? Una cosa è fare una legge elettorale, lo si fa all'interno del Parlamento, in un organo indipendente. Altra cosa è fare mandarsi questi messaggi di amore e di amorosi sensi. Io personalmente, l'idea stessa, che affidare la riforma della Costituzione, che è stata fatta col sangue dei nostri padri, affidarlo a un pregiudicato che è stato espulso dal Senato per indegnità, il quale come primo atto cancella il Senato, a me pare che sia veramente una cosa che non ha né capo né coda. Però quindi scusi, con chi la deve fare? Di bene, questo c'ha i voti. Io sto dicendo, una cosa è fare la legge elettorale, una cosa è riformare la Costituzione italiana. La legge elettorale, una cosa è fare una legge elettorale, altra cosa è esprimere profonda sintonia, la cosa è rilegittimare una persona. Non so se vi è chiaro, ma a mio avviso affidare la credibilità del paese, la riforma addirittura della carta costituzionale a un pregiudicato, diceva prima quelle che l'avete trasmesso voi stesso, e l'ho detto anche io stamattina, cioè non vuol dire niente che il rappresentante di una classe politica. Il problema di fondo è che è stato espulso dal Parlamento per indegnità in quanto condannato. Cioè, lei dice anche cioè, Serena... fra 10 giorni, fra 10 giorni, ogni volta che Renzi e Berlusconi si devono incontrare, devono chiedere prima l'autorizzazione al giudice di sorveglianza. Ma infatti l'ha fatto prima l'accordo. Ma, no, ma vedrai che quante volte ci dovranno parlare ancora. Per cui anche Rina ha i voti, anche Rina potrebbe avere i voti. Ma purtroppo quelli ce n'ha pure di più. Addirittura. Direbbe Di Pietro, caro Parenzo, acca nissune, nisciune fess, come si dice Di Pietro? Guarda così? Che qui ancora. No, lo so, lo so, lo so. Acca nisciune fess, come si dice, Antonio? E come si fa? Questa ma, è la fregatura. Ma, come si fa? Ma perché sai quante persone fanno lo fess per negli la guerra? Che vuol tradotto, dire? Quante persone sì. fanno i fessi per non andare in guerra, cioè per non affrontare le difficoltà, fanno finta di non capire. Hai capito, Luciani? Allora Renzi aveva detto qui questa riforma elettorale, questo pacchetto di riforme costituzionali criticato da Di Pietro perché ha fatto l'accordo con Berlusconi è blindato o così o pomino. Poi adesso spunta che cosa? Che Forza Italia per esempio vuole fare le modifiche per salvare la Lega, cioè per dire che se uno ha più voti in un determinato territorio può entrare in Parlamento. Altri propongono altre modifiche. Io vorrei capire da Di Pietro, ma lui come lo chiamerebbe l'Italicum, il Silvium, il Silvore, come lo chiamerebbe? Guarda, io che ripeto, non vorrei essere fraintesa, che Renzi stia cercando un accordo tra il centrodestra e il centrosinistra per scrivere le regole del gioco, ritengo un atto necessario e necessitato. Quindi non sto dicendo, non sto criticando Renzi perché sta facendo questo accordo. Mi rimane l'amarezza in bocca perché oltre all'accordo sta facendo qualcosa in più, cioè sta rilegittimando con affermazioni, comportamenti e, ma perché lo fa secondo lei? Credo, io volendo credere nella sua buona fede, crede che stia facendo una topica della Madonna, perché tante persone. E se uno prima non vuole credere nella buona fede? Eh? E se uno non vuole credere nella buona fede? Se non crede nella buona fede vuol dire che, ma non lo posso dire perché sennò poi dice, ma come ti fai a pensare che... Scusi, ma lei andrebbe a cena con Berlusconi? A me Berlusconi ha offerto di più, se permetti. Il appena governo, cominciato, appena il primo giorno, come è stato chiamato dal presidente Scalfaro, al presidente della Repubblica, dall'ufficio del presidente Scalfaro, mi ha chiamato a me sul telefonino per fare il ministro. Io ho detto... a chi mi stava a fianco, era un colonnello, e lei che fa? Se lo conosci lo evite, gli ho risposto. Ha fatto il gesto dell'ombrello. Se lo conosci lo evite, il gesto. Vabbè, ma lei ci andrebbe oggi a cena con Berlusconi? Ma torno a ripetere, io personalmente non vado e a con cena. Berdini? Eh? E con Berdini? Non ho capito, non vai a cena col mandante, non vai a cena mai con l'esecutore, non ho capito. Ma lo sa se che mi dici il terzo uomo, stai attento perché formiamo l'associazione. Lo sa che ha detto Rina? Rina ha detto su Barbara Berlusconi, Barbara Berlusconi è potentosa come suo padre, la stupisce questo? Perché come la fa a conoscere Barbara? No, io insomma non so che misure porta la Barbara. No. Non è potentosa nel senso è importante, potentosa, c'ha le palle, c'ha le palle. Non avevo capito. È potente in questo senso, come suo padre. Voglio dire, certamente sul piano economico-finanziario questi ce li hanno. Il problema di fondo è che se noi avessimo risolto il problema del conflitto di interessi tanti anni fa, uno o faceva il prete o faceva il sagrestano. Invece questo ha fatto atti per cui doveva rispondere davanti alla giustizia, si è fatte le leggi per non rispondere davanti alla giustizia, ha fatto il prete sagrestano. Capisci comunque, a me? Ha capito? Matteo, stai attento. Ma come lo tu gli dai il dito e quello ti frega il braccio. Come lo chiamerebbe st'Italicum? Le piace o no? Poi innanzitutto st'Italicum. Guarda, a me, torno a ripetere, io pure sono diciamo così, presidente di un partito piccolo, però ho il coraggio di mettermi in gioco. Non sono quello che, siccome fanno le leggi che rendono difficile la vita ai partiti piccoli, rinunciano a fare politica. Ma è una porcata, st'Italicum. Alle prossime elezioni europee l'Italia dei Valori si presenta da solo con lo... e io mi candido capolista. Certo che mi candido. Dopo vent'anni Di Pietro, pure lei fa la figura di quello della casta. Dopo vent'anni ancora. No, veramente io ci ho messo sempre le braccia, non la casta, abbi pazienza. Mai visto sempre sopra il trattore a tirare la carretta. Vabbè, mai comunque visto. È da vent'anni io sono quello che quando è stato indagato, si è dimesso da ministro. Io sono quello che quando l'hanno chiamato a fare ministro, allora non ho la casta. abbi pazienza. No. Qui c'è gente che non si vuole dimettere, manco quando, ma manco quando vengono condannati e vogliono fare i padri della patria. Però uno può dire è finito una parabola, invece lei ci riprova le elezioni europee. Non è che, ci riprova, io sono al servizio del mio paese, perché sto facendo il mio dovere e chiedo l'autorizzazione ai cittadini. È una cosa completamente diversa da come si fanno le leggi elettorali, che la vogliono fare adesso, senza né le preferenze né la possibilità. Ma le piace una legge è una porcata, sto Italicum, le piace oppure è una porcata? Così com'è, o ci mettono le preferenze o fanno per legge le primarie aperte, perché se ancora oggi a decidere chi devono essere candidati devono essere soltanto le segreterie di partito, questa è ancora una volta un'altra che è una porcata, voglio dire, offendo i porci. Scusi un attimo, ma lei la farebbe un'alleanza con Renzi come fece Veltroni? Sì, naturalmente. Cioè, si vorrebbe... Un'alleanza con Renzi per fare che cosa? No, come fece Veltroni. No, Veltroni si alleò con lei. Un accordo con Renzi. Un accordo con Renzi, perché siccome ci saranno le coalizioni comunque. Torno a ripetere, dipende dalla legge, a parte il fatto che per sposarsi bisogna essere in due. E io non mi voglio adesso portare a casa quando è bello Renzi, poi Renzi dice io non ti voglio, non ti voglio. Quando a letto bisogna essere in due. Quello sempre. Detto, così si usa, direi. Così si dice, si dice. Si dice. Lei ha mai fatto ammucchiate, lei no? Grazie a Dio, una alla volta. No, perché non è mica io. C'è a chi piace la mucchiata. C'è a chi piace la mucchiata. Ma devi sempre stare attento, perché non sai mai da che parte stai. Ho capito, ma mucchiata, a lei non piacerebbe stare con due donne, tre donne? Ci sarà stato qualche volta, avrà fatto qualche cosa strana ogni tanto. No, ma valgo della facoltà di non rispondere. Che cazzo appunto. No, non è vero, non è vero. Io sono un meridionale monogamo classico. Che... Uno a uno, one to one. Uno a uno. Ne ho fatti tre di figli, veramente. Ma lei Berlusconi in galera ce lo vuole o no? A me non interessa che vada in Grecia, ha pure 75 anni, a me interessa che non faccia più le leggi, che gli interessa a lui rovinando il paese, a me questo mi interessa. Oggi come oggi stanno facendo una legge elettorale per cui rimanderanno in Parlamento quelle che decideranno le segreterie di partito, senza che possa... Le faccio un esempio, prendi il caso mio, lei mi ha chiesto di Renzi, con questa legge elettorale, io come faccio? Se io voglio mettermi in gioco e chiedere l'autorizzazione ai cittadini per andare in Parlamento, mi devo candidare all'interno di una grande area, perché hanno messo sbarramenti proibitivi, anche se uno dice io posso avere anche 1 milione di voti di preferenza, non entro perché non ho un partito che mi fa entrare. Allora io posso partecipare alle primarie per potermi far scegliere dagli elettori? Con questa legge elettorale no, perché chi deve partecipare alle primarie o chi deve essere candidato o inserito lo dice il segretario di partito, e non ho capito dove sta la democrazia qua. Scusi, un'ultima cosa di Piero, sai che lui è più vicino paradossalmente a Fratelli d'Italia, a Crosetto, che non a Renzi? Vabbè, questo no? Cioè lei potrebbe candidarsi alle primarie di Fratelli d'Italia o no? Guarda, questa è un'altra cosa che va sfadato in questa frammentazione incredibile, dove ormai ognuno dice so di destra, so di sinistra, poi alla fine sono parole vuote se non ci si mette un contenuto. Andate a vedere tante cose che hanno detto quelli di sinistra e che sono, diciamo così, una volta appartenevano alla destra più brutale, e tante cose che invece dicono quelli di destra che possono essere anche di tipo sociale importante. Quindi a me interessa la correttezza della persona, la sincerità della proposta, e per quanto mi riguarda, io con Crosetto tante volte non mi sono trovato d'accordo, ma in politica ce ne fossero di persone. Senta, per un'ultima cosa da juventino, ma che figura ha fatto l'Inter? Ha fatto la figura della Juve, cioè? Ha visto vincere. Come ha visto? Perché una cosa che mi hanno insegnato a me, Manetta, non devi mai dire che hai perso, o vinci o hai visto vincere. Ho capito, ha fatto una figuraccia con questa storia di Guarin e di Vucinic, no? Certo, che devo fare? Chiamo la figuraccia. Hanno fatto la promessa prima, tutti d'accordo, alla fine hanno fatto saltare tutto. Ma hai saputo che addirittura adesso, nell'ultima operazione di stamattina, hanno preso le mazzette pure per vendersi le partite, sì. Vabbè, quello è una storia vecchia. Che comune? Tutto, cioè, ma che cos'era? No, ma vai a vedere, qual era il paese stamattina? Boh, che ne so, dov'era? Gallipoli? Non lo so, chiedo a te qual era. Gallipoli forse. Non mi ricordo. No, leggete bene. Non faccia Gallipoli. Come Razzi, non faccia come Razzi. Ma ogni tanto vedi ancora Feltri a cena? Feltri l'ho visto l'ultima volta in una trasmissione. Io gli sono sempre molto grato. Lui è stato il primo a risarcire i danni per le diffamazioni che mi ha fatto, sì. Ma lui, il giornale, diciamo. Vabbè, certo. Persona leale, Feltri. Feltri ce ne fosse. Ce ne fosse. Almeno te lo dice in faccia quel che ha da dirti. Che avete in comune? Io, Che avete in comune? Cioè, avete... Le mogli bergamasche. No, a parte quello, d'accordo. È vero. No, ma è quello d'accordo. Però avete pure qualcosa in comune, no? Anche... Il carattere, forse. No? Che pane al pane e il vino al vino. Pane al pane e il vino al vino. Cioè, se ci fosse un Feltri nella destra sarebbe meglio. Almeno è uno che fa quel che dice e dice quel che fa. A me mi rode tante le balle quando sento a destra e a sinistra quel che dice una cosa e fa un'altra. Tu vai per andare a confrontarti su un tema e ti trovi tutta un'altra cosa, insomma. Mi pare di capire sotto questo aspetto che sta succedendo pure in questo periodo che la legge elettorale che devono fare era per ridare la parola ai cittadini e invece no, ciao caro, ciao Qui. Ciao, a presto. Ah, bravo, eh. Giuseppe, dimmi che c'è. Perché non ti candidi con l'Italia dei Valori? Ma che sei matto, sei? Perché ma vuole aprire le liste a tutti. Ma dice per anche, carità, anche Cruciani potrebbe candidare. Ma io non mi candido lo vorresti nulla. Nell'Italia dei Valori o no? All'Europa. Cruciani avrebbe la caratteristica nell'Italia dei Valori che non aspetta manco il giorno dopo per scappare dall'Italia dei Valori. Come? Hai capito? Questo è vero. Cioè, nel senso che, capisci, tu almeno sei un traditore nato. Ma che traditore nato? Bellissimo, isolatelo a Milano, questo in regia, isolatelo. No, non è che sono un traditore nato. Perché mi candiderei dopo 2 secondi andrei al gruppo misto, capito? Dopo 2 secondi. Certo, te ti interessa magnà, Ma che magnà! Mi interessa pensare per... Non mi potrei candidare con un partito perché sono troppo indipendente dal punto di vista di quello che penso. Cioè, non posso essere inquadrato. Quindi non sai, quando guardi allo specchio non sai riconoscerti, insomma. No, appunto, cioè, la penso una volta come Di Pietro, una volta come Berlusconi, una volta come l'altro. Capito, ciao, capito. Presto, ciao. Partecipa al partito dei transessuali. Ma quello... No, perché quello un po' a destra, un po' da una parte, un po' dall'altra. Ma sei mandato a trans tu, Antonio? Sei mandato a trans? Tra che cosa i trans? I transessuali, non li conosci? Ma no, non li conosco, grazie. Beh, no, Piero, li rispetto, li rispetto. Però sei rispetto per l'apertura delle case chiuse, no? Io sono, le rispetto tutte perché credo questa idea di prendersi il cocchio gay, che è transessuale, quello è nato così, che se rispetta la legge, se si comporta bene, se lavora, guadagna e fa del bene al paese, ma che mi importa a me? No, io ho grande rispetto per questa, la verità è che a me fanno più ribrezzi quelle che pregano di notte e fottono di giorno. E chi sarebbe? Per esempio, mi faccio un nome. Per esempio, chiama Parlamenti, che via Salla? Non mi ricordo qual è. Via Montecitorio. A Montecitorio. Pieno di gente così. Di preti spretati. Ciao, caro. Ciao. C'è grande polemica, cari ascoltatori della Zanzara, su quello che viene trasmesso da Mediaset nelle ore pomeridiane. E non solo nelle ore pomeridiane, anche durante la nota trasmissione chiamasi Lucignolo. Con associazioni dei genitori, delle famiglie e quant'altro, che se la prendono con la D'Urso perché manda in onda servizi sul sesso, dominatrici, eccetera, eccetera, in orari pomeridiani. Posso chi dirvi? Sono le dominatrici? Posso dirvi le dominatrici. Le donne dominatrici sono degli uomini. Quella che viene intervistata anche da Radio Padania, quella signora. Quella lì, che abbiamo intervistato anche chi noi è qui. Lì? Una dominatrice, una mistress, una dominatrice. Cioè, quelli ci sono degli uomini che si fanno pagare, sarà consentito, no? Si fanno, anzi, no, pagano per essere dominati. Perché una ti piazzi i tacchi addosso. In questo caso, in un servizio che ha mandato la D'Urso durante il pomeriggio di domenica, che però non aveva visto quel servizio, ma sì, ma uno non può dire però non ho visto il servizio, scusa, cioè, abbi pazienza, non lo può dire, Ciao cani, no, ciao. Ho capito, non siamo cani. Questa è la tua amica, questa è la tua amica, a te piace che uno ti chiami cane? Me no. A un certo punto questa mistress credo che fosse Domenica Live, no, il programma della D'Urso, dice che usa, ci fa scoprire una nuova realtà, gli uomini posa cenere, cioè praticamente ci sono degli uomini che si fanno spegnere le sigarette o cenerare addosso, esatto, si fanno mettere la cenere addosso e godono di questa, ti rendi conto? No, ma a me non piace. Sei tu l'esperto di tutta sta roba, no, ma non di tutta sono questa cloaca, ma l'ha mandata in onda, ragazzi, però di questa porcheria sei esperto. Accusano noi, dopodiché Domenica Live, Mediaset manda in onda questa roba. Vabbè, questo che c'è. No, ma per me fanno benissimo, per me fanno benissimo, non devono rompere i coglioni le varie associazioni, eccetera, eccetera. Però poi non te ne devi pentire, no? Signor Silvio Berlusconi pare che voglia chiudere i programmi, basta, oppure chiudi i programmi. Ma come basta? Perché non lo sapevi prima? Ma che follia è? Cioè, basta, se no chiudi i programmi. Ma sono i programmi tuoi. Sono una padrona da un paio d'anni. Due anni tutti. La sottomissione, la dominazione, invece di passare le serate a giocare alla PlayStation, io le passo con amanti di questo mondo. Chi è schiavo non è per forza masochista, amante del dolore, può essere solo amante della dominazione o della sottomissione. Basta poi con queste proteste, eccetera, eccetera. Se si commettono dei reati, denunciate le trasmissioni alla magistratura, eccetera, eccetera. Se qualcuno li ha messi in onda, significa che volevano metterli in onda, ma non c'è nessuno scandalo a parlare di queste cose, perché la domenica pomeriggio non si può parlare di queste cose. Qual è il problema? Ormai tutti vedono tutto a qualsiasi ora. Basta aprire internet. Basta aprire internet. Non c'è problema. Anche mia figlia di 8 anni e mezzo ha internet, potrebbe, ha l'iPad, usa l'iPad ogni tanto. Potrebbe imbattersi, speriamo di no, in qualche filmato strano. Speriamo di no. Là, però, speriamo mia di no, va, speriamo di no. Io sto sempre vicino a lei, ho per capito, vedere cosa, ma che, guarda. Ho capito, se un genitore sta di un ragazzo di 10-11 anni sta davanti e si accorge che c'è questa cosa, cambia. Beh, ma poi che cosa? La signora D'Urso, se deve avere di chiedere scusa, vuol dire che ma uno chiede scusa quello il suo pubblico. Ma no, perché si vede che lei si rende conto che non è quello il suo pubblico di persone che sì, si fanno dominare. Ma questo sono affari suoi. Certo. Comunque ha parlato bestie. No, bestie che c'entra. Ha parlato di scivolatina, Poi c'è stato anche un servizio sul poliamore, no? Cioè un servizio sul poliamore, cioè coloro che hanno diversi partner, no? Diversi partner. Una porcheria, dai. Il poliamore. Ma che è una porcheria? La cosa? Porcheria, perché dai, una porcheria? Perché tu perché sei monogamo, tendenzialmente monogamo. Sì, tu sei tendenzialmente monogamo. Ma qui è tutto un casino che siamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Ma cosa? Non facciamo ridere. No, ma ragione. Chiedi. Cioè, la chiedi pensi come Taormina? No, chiedi a Taormina cosa pensa della dominatrice lì, quella lì. Metti in contatto Taormina con quella, come si chiama lì, quella di radio, ma come si chiama? Ma non lo lì? So, non mi ricordo, la mistress, amica la mistress, prova a mettere comunque, prova a dire, la Duzzo, fai dire alla signora mistress a Taormina, aspetta, ti metto i tacchi addosso, fai chiamare la signora mistress Taormina cane, vediamo cosa gli dice il professore, magari il professore piace, che ne fanno schifo, no, mi fanno schifo, erano i gay, però. Allora, la D'Urso dice, però è un sogno avere più partner, cioè ci gioca pure su questa cosa, giustamente ci gioca. Scusa, io trovo geniale la vostra filosofia, anche perché se uno c'ha contemporaneamente, questo è il sogno, sì, però un attimo, questo... a casa, questo è il sogno irrealizzabile di ognuno di noi, no, donne, che tu ce n'hai tre, diciamo un minimo di tre, uno è simpatico e ti fa ridere, un altro è un gragnocco, ecco, e un altro, che ne so, ti porta i figli a scuola, diciamo, ecco, così, ecco, sì, racchiudi, è... in tre racchiudi. Va bene, dove andiamo? Paolo da Milano. Paolo. Salve, salve. Mi dimmi, sente? Caro, dimmi, dimmi. No, no, io ho chiamato per interagire, interloquire col signor Di Pietro, direttamente. Poi mi hanno detto che non è possibile perché... Qui non si interagisce con nessuno, solo con noi. Si vuole evitare la cacciara, però... No, ma che si vuole evitare la cacciara? No, no, non è questo, non so chi gliel'ha detto. Faccio parlare, Cruciani. Però a sentire, adesso volevo parlare di Di Pietro, però adesso mi è passata la voglia, perché dopo quello che ho sentito dire a lei... mi rendo conto che il livello è sempre più scadente. Ma lei si è mai chiesto se è corretto esprimersi come si esprime quotidianamente? Oddio, ormai ancora negli ultimi mezzi. Lei ma ha come una figlia di 8 anni e mezzo. Ma come mi sono espresso? Scusi, come mi sono lei espresso? Lei ha una figlia di 8 anni e mezzo, ma mi dice che per lei è normale che sua figlia si può imbattere casualmente. No, ma non ho detto che è normale, potrebbe accadere, ho detto, se uno maneggia un iPad. Ok, perfetto. Ma lei come genitore si chiede qual è, si è mai chiesto qual è il suo ruolo? Lei come conduttore di questa bellissima trasmissione, si è mai chiesto se ha senso esprimersi sempre con parolacce inutili, quando il suo pensiero lo può esprimere anche... Senta, Paolo, caro Paolo, gentile Paolo, gentile Paolo, gentile Paolo, me la dica, le dico solo una cosa, me la dica. A me capita, siccome la seguo ormai da anni, capita di avere la sua trasmissione, la radio accesa sulla sua trasmissione, e di avere i miei figli che li sto portando a casa. Bene. E mi è capitato più volte di sentire i miei figli dire, ma papà, ma questo signore non sa esprimersi se non con parolacce? Ma lei ha capito qual è il suo livello? Mi dispiace per i suoi figli, ma sbagliano, ne sentiranno, ne hanno sentite questa sera, ne hanno sentito questa sera molte di più da Di Pietro, per esempio, piccole parolacce, piccolissime parolacce, rispetto a quelle che ho detto io, perché stasera peraltro non ne ho dette. No, ma io non sto dicendo stasera, lei involontariamente ormai ha adottato un modo di esprimersi che non sta né in cielo né in terra. Vabbè, ma io secondo lei non sta né in cielo né in terra? Se ha qualcosa da rimproverarmi, faccia qualche esposto, mi denunci, ma faccia quello che vuole. Ma non è, ma scusi, ma qual è il problema? Che cos'è che le dà fastidio? La parola cazzo? La parola cazzo le dà fastidio? Che cos'è che le dà fastidio? Se le dà fastidio, pazienza. Ma lei a casa sua con sua figlia si esprime così? Ma a parte che ogni tanto qualche cosa può scappare. Comunque non è un'abitudine quotidiana. Non è un'abitudine quotidiana. Non è un'abitudine quotidiana. Non è un'abitudine quotidiana. Ma non è un'abitudine quotidiana, ma io la seguo tutte le sere. Ho capito, lei sente male, evidentemente sente male, o sente delle parti. Ma sta scherzando. Guardi che io la seguo e mi rendo conto di quando lei dice le parolacce, e probabilmente a questo punto devo dire che lei non se ne rende conto. Vabbè, non me ne rendo conto. Abituato. Bene. Ecco, allora la invito proprio in maniera molto gentile, rivedere il suo modo di esprimersi. Io non rivedo perché nulla, perché sono me stesso, capito? Sono me stesso. Se le piace così, se non le piace, pazienza. Ma no, allora mi dispiace. Allora guardi, glielo dico francamente. Sì. Allora, se la sua trasmissione è così. Ma così come? L'ha sentita stasera o no? Che cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? Le dà fastidio? Pazienza, le dà fastidio? Pazienza. No, ma pazienza lo dice lei. Perché lei fa un servizio. Pazienza, pubblico, ma il servizio pubblico non c'entra niente. Quella è la RAI. Se lei è abituato a esprimersi in questa maniera. Oddio. È una persona maleducata. Vabbè, sarò maleducato. Per lei sarò maleducato. Maleducato perché. Capita che è arrivato il professore qua, è arrivato il professore, è arrivato il professore di professore. È arrivato il professore di modi, è arrivato il professore di buone maniere, è arrivato lui che non dice mai una parolaccia in vita sua, che non si esprime mai male, eccetera eccetera. Io sono atto che ormai è tutto finito. Ma già ne ho preso atto. Allora Paolo dovrebbe chiedere se ridai è giusto esprimersi così. Ma a chi lo dovrebbe chiedere? A chi lo dovrei chiedere? Alla commissione internazionale delle buone maniere? A chi lo devo chiedere? Delle domande e a darsi delle risposte. Questo c'è anche qualcuno che insegna come fare questo tipo di attività. Basta andare su Rai 1 dopo mezzanotte, impari a farsi le domande e a darsi risposte. Chi c'è la consiglio, le consiglio vivamente di evitare di esprimersi in maniera volgare. Poi parli di quello che vuole. Bene. Ma si può parlare di qualunque cosa senza usare termini impropri. Bene. La saluto dal professore. Buona serata. Filippo da Verona. Che palle questi professori, che palle questi insegnanti di buone maniere, mi hanno fatto due coglioni così. Filippo da Verona. Coglione è una parolaccia? Sì, è una parolaccia, no, coglione. Non sono a Verona, sono ancora a Brescia. Dire due coglioni non si può, eh? Due palle non si può, eh? Ancora. Non si può. Sei diventato anche tu. Dai. Sei diventato a modino pure te. No, non ho capito, Filippo, che hai detto? No, per quello di primo mandalo a fare in culo, e te lo dico che sta ascoltando mia moglie e i miei figli, mandalo a fare in culo. Chi è che devo? Chi devo mandare a fare? Ah, quello di prima devo mandare a fare. Ma no, non l'ho mai lista di prima che. Vabbè. Allora, senti una cosa, mi dovresti passare gentilmente a quel pezzo di malacarne che hai vicino. Malacarne, Filippo da Verona. Sì. Ciao, scarto di magazzino, senti una cosa. Come hai detto, scusami Filippo. Dai Filippo, come hai detto, scusa? Scarto di magazzino, ma non scarto si può. Di magazzino. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito. Beh, Filippo resta lì in attesa, camionista, Verona, ma anche se l'accento non era troppo di Verona, ma abbiamo qui un senatore di Forza Italia che però appartiene a un gruppo che si chiama GAL, un nostro amico già protagonista, la Zanzara. Vogliamo sapere come l'ha presa questa cosa dell'abolizione del Senato, che secondo me è una grandissima cosa, lo dico subito. Sì. Si chiude la Serranda, si chiude la Claire sul Senato. Fino a quando non lo vedo non ci credo. Anch'io non ci credo, nemmeno io. Però si vuole chiudere la Claire e ancora c'è chi dice no. È importante il Senato, il bicameralismo, le leggi, le garanzie. Ma di che, ragazzi? È finita. Vincenzo D'Anna, buonasera. Buonasera. Senatore, come sta, carissimo? Bene, grazie. Lei, Cruciani? Beh, combattiamo, dai, su, combattiamo. Gal. Allora, lei praticamente, Renzi, la vuole fare fuori, caro D'Anna. Senatore... Fa bene, io alla mia età dovrò pur andare in prigione. Ma fa bene abolire il Senato, Renzi? No, facciamo bene ad abolire il doppione di una delle due camere. Però, dice lei, se bisogna abolire qualcosa, cosa bisogna abolire? No, per me va bene. C'è una cosa che si stenta a capire. Se bisogna ridurre i parlamentari, perché non chiudere la Camera che ne ha 630 e invece di chiudere il Senato che ne ha la metà? Però vabbè, sa, la camera vista, però da punto di vista della logica sto danna, sì, no, se dice... uno vuole risparmiare, dice, perché uno non abolisce solo però... sui numeri, dice. Però su, se c'è, però questo è danna. Però basta, si rassegni, il Senato, no, il Senato, no, io sono già rassegnato. Non serve, ha già rassegnato a fare le valigie, insomma, no? Sì, sì, tranquillamente. Le facciamo tutte le settimane, basta non ritornare. Prende i suoi sacchetti di plastica. Ma perché biglietto... i sacchetti di plastica? Che prende i sacchetti di plastica. Ma non ce l'hai i sacchetti di plastica. Si mette un biglietto del tram in tasca. Devo dire la verità, sì, io ho una borsa con sulla foto e ci tengo molto, perché la tengo come una reliquia. C'ho la foto di Parenzo sopra. C'è la foto di Parenzo sopra la borsa. Il suo... No, lei prende il suo plaid. Ce l'ho come, una reliquia. Guarda, prende il suo sacco a pelo, guarda, è così da oggi, basta, è così, sacco a pelo in spalla, zainetto. Ma perché sacco a pelo? Ma perché buono. Sacco a pelo? Ma quello dorme, dove dorme lei a Roma? Danna, scusi, in albergo? Io c'ho, no, c'ho una camera con uso, con un piccolo cucinotto, diciamo, in affitto. Una camera, come una camera? Danna, lei è senatore della Repubblica, sta in una camera. Ma divide un appartamento? 500 euro al mese. Ma divide un appartamento? No, c'ho un mio appartamentino, chiamiamolo così, di pochi metri quadrati, con bagno, cucinino insomma un ambiente letto. E che così tanto paga? 1500 euro al mese? Un latrocinio? Un furto? Cosa vuole? Ma dov'è la... Le affittavo che io zona una stanza, è? Danna, scusa. Zona centrale, nei pressi di Piazza San Lorenzo in Lucina. Beh, beh, insomma, al centro, da quelle parti. Poteva andare a stare a prima porta, scusa. Guardi che Parenzo è una casa grande, perché no, c'è una casa, una casa grande. Oltre 200 metri quadrati. Ma che... Io volevo... Danna, da oggi, Danna... Confessa, no? Prende la sua, il suo sacchetto. Ma non c'hai sacchetto? Che ti c'ha le belle prende valigie, la tenda, la tenda. No, c'ho il borsone con la immagine di Parenzo. Danna, allora fra un anno è tutto finito. Lasci riempire. Certo, fra un anno è tutto finito, cioè sarà l'ultimo anno in cui lei avrà... grazie. Fra l'ultimo anno in cui lei avrà diciamo bene. Il bol il come si chiama la no la roba lì che arriva dello stipendio, come si chiama? Il l'emolumento. Sì, l'emolumento lì, la carta, come si chiama? Guardi che io ci guadagno qualcosa a ritornare alla mia professione. Ah, lei dice? No, lo dicono le mie dichiarazioni di reddito. Cioè lei in politica ci ha perso un sacco di quattrini? Ma un sacco? No, ma qualcosa ci ho perso. Qualcosa ci ha perso. Cioè quant'era la sua dichiarazione prima della discesa in campo? Discesa in campo. Beh, all'ordo più di 200.000 euro. Beh, all'ordo, beh... E adesso guarda. E poi ci sono anche i cespiti... degli altri componenti della famiglia. Vabbè, quello rimangono, che c'entra? Questo prima. Io ho dovuto lasciare tutto, due laboratori di analisi, sì. E ovviamente li ho lasciati in mano in parte ai dipendenti, nelle parti in mano ai miei familiari, sì. Che sono professionisti anch'essi. Per cui alla fine il suo reddito era superiore ai 200.000? Sì. E adesso invece, comunque, adesso pure quant'è il reddito lordo da deputato? Sarà 250. Guardi, noi abbiamo al netto, le dico al netto, 4.900 euro di indennità. Più. E poi ci sono le spese di diaria per pernottamento. 12.000 si arriva, dai. Sono 4.000, sono 8.000 euro. Ma comunque un po' la fame si fa, dice lei, da deputato, un po', diciamo, un po'. Si vive più che dignitosamente, ma contrariamente a quello che molta gente pensa. La vera non casta si naviga nell'oro. La vera casta non è quella, dai, la vera casta non è quella. No. E chi è la vera casta, secondo lei? Basta andare a vedere i grossi dirigenti degli enti statali e parastatali. Quelli a vita hanno lo stipendio. Generali, certo, molti quello è vero. Molte persone che dirigono. Quelli lavorano anche di più, insomma. Vabbè, senta ce n'è è davanti, insomma. Ma oggi invece vanno di moda i politici, quindi senta, la vulgata è quella. Senta, ma Renzi, tutti in Forza Italia esaltano Renzi, il fatto che ha incontrato Berlusconi, eccetera eccetera. Lei che ne pensa invece? Io penso che Renzi abbia fatto bene, anche perché con il disimpegno di Grillo non aveva altro da fare che parlare con l'altra forza, con una delle tre forze che erano in Parlamento. E vabbè, ma al di là dell'incontro eccetera, però come politico, cioè, a me Renzi non piace. E come mai? Non voglio deluderla, è perché è vago, Non ho capito qual è il modello sociale ed economico di riferimento, come immagine. Ma che mestiere fa? Lo Stato. Che mestiere ha fatto? Prima di fare, prima di fare il politico. Non lo so, credo che abbia fatto il politico finora in vita sua. Per cui quando... Così giovane è stato sindaco di Firenze, è sindaco di Firenze, è stato presidente della provincia. Per cui quando se la prende con la politica lei dice... Quindi, ma sa, in Italia ognuno si sceglie un pulpito e molto spesso non ci dovrebbe salire su quel pulpito. Senta, l'ultima cosa, caro Danna, ma il Senato ha abolito il reato di clandestinità, no? Lei ha scritto una cosa, no? Che sarà tale solo in caso di recidiva. E come dire, che cosa, cos'è che ha scritto? Ho fatto un parallelo, come dire che lo stupro diventa reato solo se ci provi la seconda volta. Vabbè, adesso, lo stupro e il reato di clandestinità sono due cose diverse. Un attimo solo, un attimo solo. Spettacolare, spettacolare. Eh beh sì, siamo ancora qui con Vincenzo Danna, senatore di Forza Italia. Sì. Senta Danna, ma per con ottenere... Con il suo sacchetto, con le sue... Ma non c'è nessun oggetti. Sacchetto, è l'ultimo anno al Senato, fallo campare bene, Parenzo, fallo l'ultimo anno al Senato, poi basta, chiudiamo baracche e burattini e non se ne parla più. Scusi Danna, ma... perché l'ultimo anno? Voi siete convinti che... Che fa, lei si ricanda, l'anno, ma... l'anno prossimo... No, lasci perdere me. L'anno prossimo si voterà, io non ne sarei tanto tranquillo. Vabbè, adesso poi vedremo. Ma per bisogna essere, per ottenere qualcosa da Berlusconi bisogna essere vicini a Dudu, secondo lei? Beh, bisogna essergli almeno simpatici. Almeno simpatici, al cane, al cane dice lei, no? Al cane. Lei c'ha un cagnolino, caro Danna? Si procuri. No, io c'ho un pastore tedesco. Altro bravo, che Dudu. Perché oggi per proferire parola con Berlusconi bisogna avere un cane. È per questo che, tra lei la Pasquale, insomma, non c'è grande feeling. No, io non ho il piacere di conoscerla, la signora Pasquale. Ma è vero che fa politica, insomma, dà consigli anche sulle scelte, scegli questo, scegli così quell'altro. Dice qualche mio collega parlamentare. Con lei. Ho chiesto delle spiegazioni, così mi è stato risposto. Cioè che ha deciso la Pasquale, dice lei. Sì. Ma è vero secondo lei? Non lo so, se qualcuno lo dice, non ho motivo. Non ho motivo di non credere, dice lei, no? Di non credere. Però, Dan, è improprio un po' che alcune scelte vengano fatte dalla Premier Dam di Berlusconi, o no? Oppure ci sta nel gioco di Berlusconi, nella ma grande... Guardi, che io sappia, la signora Pasquale ha un'esperienza pregressa. Vabbè, ma di che parliamo, dai? Provinciale. Vabbè, ho capito. Sa, la vita è inutile scandalizzarsi, è fatta anche di rapporti. Se ha stima di un mio collega, perché... Lo ha conosciuto, perché lui l'ha omaggiata, ha potuto apprezzare le qualità ed è giusto che lo abbia potuto raccomandare, tra virgolette, o segnalare al presidente Berlusconi. Ma porti anche lei della mozzarella alla signora Pasquale, su, perché non devo dire la verità, ci avevo pensato. Ah sì? A regalare della mozzarella? Perché, sa, per risollevarmi dalle angustie nelle quali mi trovo, per non essere completamente affidata all'oblio, dovrò pure attrezzarmi in questo modo. Cosa possiamo regalare alla Pasquale? La mozzarella? Oppure... Ma no, io manderei un bel fascio di rosa. Oppure, che ne so, qualche cosa per il cane, no? Ma non credo che le manchi qualcosa. Su questo non c'è dubbio. La compagna del presidente Berlusconi, credo che sia addirittura impossibile farle un regalo e non trovare qualcosa di grazioso, di, certo, scusi, di carini. Però Danna, lei dice il mondo va così, no? Cioè oggi per avere qualche, per avere, non dico udienza, ma per essere notato, bisogna avere un cane. Bisogna avere dei rapporti. Guardi, io ho imparato questo nella vita. Sì. Diceva mia madre: abbi fortuna e dormi. In genere si dice che la fortuna è quando il talento incontra l'occasione. Sì. Io qualche talento ce l'avrei, che non mi capita l'occasione. Ho capito, ma comunque ha troppo potere sta signora o no? Sta signora Pasquale? No, non lo so. Non lo sa, no. Perché... Non mi faccia fare ulteriori danni. Beh, già un po'. Ulteriore danna. Ulteriore danna. Ulteriore danna. Ulteriore danna. Bravo Parenzo. A presto. Saluti a presto. Arrivederci, Cruciani. Arrivederci, caro. Basta col Senato, chiudiamolo. Vado a stare svegli per amare. Vado a stare svegli per soffrire. Ma che fastidio, che fatica sopportare di notte le zanzare. Ancora Filippo, Filippo? Sì, sono qua, Beppe. Senti, amico, ma è vera questa cosa qui degli omosessuali che vi rincorrono, che vi rincorrono? A voglia! Ma voglia. Dai, su, ma basta con sta storia, Filippo. Basta. Ma è vera, Beppe. Ma non è vera, dai. È tuo amico, Beppe. Te lo giuro. Ma non è mio amico, dico, mi chiama così, che, allora. Mi dice che mi stanno ascoltando, sono cose che ti avvicinano, accendono la luce e sono lì mezzi nudi, ti mettono davanti, ti fanno lo stop per fermarti. Adesso ascoltami, non è che ti aggrediscono, per carità. No, ci mancherebbe altro. La loro mercanzia, se ti piace ti fermi, se no te ne vai, ecco. Cioè, che mercanzia è, scusa? Vedere una ragazza che fa questo, però sai, il mio occhio dice questo. No, dai, Filippo, scusami, ma che mercanzia fanno vedere sti omosessuali? La mercanzia che abbiamo, spero che anche tu c'hai la mia stessa mercanzia. Ah, lei, tu dici il pacco, diciamo, no? È normale, sì, si smanettano, sai, sono lì nudi o vestiti da donna, recicalde. Ma questo quando succede, scusa, quando succede, mi spieghi? Sempre, in continuazione, di notte più. Ma in continuazione dove? Nelle aree di servizio, nelle piazzole, dove? Ascolta, già sulla strada, tu sei in autostrada a 90 all'ora, sì, giusto? Sì. Loro si affiancano a 90 all'ora perché i camion più di 90 all'ora non fanno, sì, giusto? E allora praticamente accendono la lucina interna e niente, sono vestiti da donna in biancheria intima. Ma io non ho mai visto queste cose. Niente, poi si mettono davanti, sì, e ti frenano in modo che ti fanno capire se ti vuoi fermare a qualche piazzola e via discorrendo. Ma io non ho mai visto una cosa del genere. Ultimamente mi capita di vedere tanti. Sì. Tipo il ragazzo e la ragazza, lei nuda, praticamente ti fanno segno se ti vuoi fermare assieme alla sua donna. Ah, sì, vabbè, questo è porno. Ma che se succede? Porno autostrade, porno, le porno autostrade dei camionisti, Filippo da Verona. Ecco, sì, io ieri sera ti chiamavo da Verona, per questo ti è rimasto Filippo da Verona. Io sono calabrese. Sì, questo sarà capito. Ma dove sei adesso? Dove sei adesso? Adesso ho passato a Brescia, sono vicino a Desenzano. Vabbè, raccontaci altre storie. Raccontaci altre storie di camionisti, la prossima volta. Capito? Altre storie, va bene, dai, vi torno. Anzi, aspetta una cosa, sai cosa facciamo, Beppe, in diretta? Sai che noi siamo dotati del baracchino? Il CB. Sì. Adesso in diretta faccio un saluto e voglio fare un saluto anche a Parenzo lì. Parenzo. Grazie, Parenzo. Ne sono onorato, Filippo, grazie. Vai. Fammi a sentire, Io sono sul canale 5, adesso. Ma che cazzo è nella zona dove ma mi no, sono le frequenze sì, loro. Vai. Ascolta bene. Vai. Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236. Sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. Parenzo devi dire, cretino, capra. Va bene, ciao, grazie. Bello. Ciao Filippo, bello. Ciao. Mario da Reggio Calabria. No, io guardi, sono in così incazzato che proprio sto spruzzando fiamme dal culo che se c'è un pollo lo faccio bello. Posto tipo in due secondi. E perché? Che è successo? Mi riferisco in che cosa? A quel cialtone che io sento dire tipo di sbarramento politico. Che chi era là? C'era anche Di Pietro. Di Pietro. Queste facce che alle ultime elezioni le abbiamo mandate a fanculo, Di Pietro, Casini, ci li troviamo tra le balle sempre. Ma no, veramente Casini sta in Parlamento, comunque vabbè. Ma le votazioni tipo l'UDC e per quanto riguarda Italia dei Valori, basta quello che hanno combinato tipo tutti questi partiti alla luce delle notizie che sono uscite l'anno scorso anche, hanno pure la faccia tosta, non hanno il senso di pudore di mettersi un burka e di ritirarsi a fare chi è il contadino a montare le capre e chi a fare qualche altra cosa, ma non a comparire qua. Cioè questi partitini devono scomparire perché a furia di rimborsi elettorali alla fine siamo noi dipendenti pubblici che li manteniamo. Vabbè, ho capito, ma non tutti. Di scomparire. Sì, ma c'è chi ha il consenso, capito? Chi è che dovrebbe scomparire? Di Pietro? Che cosa? Devono scomparire Di Pietro, devo scomparire Casini, devo scomparire tutti quei cazzi di partiti. Lo decidono gli elettori, non lei. Ci sono talmente tanti simboli che un vecchio rincoglionito non sa più neanche. Ho capito, ma non è che può decidere. Non è che può decidere lei chi eliminare o chi non eliminare. Cioè... No, io sto dicendo la mia umile opinione, umile. Sto dicendo che la democrazia è nata tipo nel V secolo avanti Cristo nella polis greca. Ma questo che c'entra comunque, adesso? Sto dicendo io che comunque tipo dovrebbe esserci il concetto sportivo che chi sale quello che ha preso più voti. Se sono due o tre o quattro o cinque partiti come il pentapartito ai tempi di Craxi, cioè ognuno se vale all'interno di una coalizione lo portano. E se no, no. Cioè, che cosa è? Cioè, no, allora, tipo, il nostro concetto, il nostro... Allora, ho capito. A lei non piacciono i piccoli partiti. Su, Claudio da Treviso, no, dai. Perché siamo noi a pagare. Ho capito. Claudio da Treviso, Claudio. Cruciani, buonasera. Dimmi. Pensierino della sera. Sì. Sto parendo. Sì, ma abbassi la radio, però, che già mi sono rotto le scatole, dai. Eccolo. Come si chiama questa? Non ha un look, non ha un'immagine, ha questo sguardo da panda, ha una voce sgradevole. Quando va in onda poi in TV con questo abbigliamento che ha quattro taglie in più, io voglio solo una domanda: chi lo raccomanda questo? Lei. Ma va, Parenzo, muto. Sto lei. Parlando con Cruciani. No, però è vero, è vero, è vero, lo paga lei. Lo paga lei. Lei? Lo paga lei che chiama, lo paga lei che chiama. Certo. Perché già chiamando le ho stimolato, le ho titillato lo stomaco. Anche quello va benissimo, è utile. Le ho anche titillato, se Parenzo la fa cagare, anche se Parenzo la fa cagare. Lei ha telefonato però per dirlo. Capito? E in questo momento mi ha reso ancora più felice. Alla 7 fai una Madonna. Hai fatto Iceberg, ti hanno mandato Vabbè, via. Va benissimo. No, sono andato via io, ma va bene tutto, va bene queste ricostruzioni che lei fa. Ma lei mi ha seguito però. Ma lei mi ha seguito in tutto quel che ho fatto. Però lei è un ammiratore, ammiratore segreto di Parenzo, certo. Capito? No, forse dopo 3 milioni di telefonate tornerà a scrivere il mattino di Padova. Ma che c'entra il mattino di Padova? Ho scritto per il Gazzettino, però. Ma lei mi ha per l'esattezza. Non sa nulla questo Claudio. Ma no, nulla. Però ha seguito tutto, vedo. Ha seguito tutta la carriera. Ha seguito tutto, però. È una disposizione proprio fisica, hai capito? Ho capito, ma ha seguito tutto. Fisica. Sa del Gazzettino. Meglio, io voglio che lei, quando sente la voce di Parenzo, va a cagare. Cioè, io voglio che lei, quando sente la voce. Sì, sì, sì. In questo momento, figurati. Ma va benissimo. No, ci faccia sentire cosa. Se sta sulla tazza, non dica stronzate. Tiri lo sciacquone. No, Parenzo. Tiri lo sciacquone. È bugiardo anche. Bugiardo, tiri lo sciacquone. Non è vero. Tiri lo sciacquone. Sì, va bene. Quanto dura ancora, Parenzo? Lo sciacquone. Quanto dura? Tiri lo sciacquone. Fino a quando lei continuerà a seguire. Ecco. Oh, un po' debole però. Un po' debole sto sciacquone. Lei funziona male. L'idraulico, perché ha lasciato la striscia. Ha lasciato la striscia. Ha lasciato la striscia. Ha lasciato la striscia. Gerardo D'Avellino. No, ha chiuso, sì, una volta che abbiamo. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera, Parenzo. Gerardo. Buonasera, Gerardo. Sono un camionista anche io. Pure lei ha a che fare con i froci? Non ho a che fare con i froci, però quello che ha detto il collega è vero, si affiancano a 90 orari e ci fanno vedere qua, le gambe, qualcosa, e poi si accettano le quattro frecce se ti vuoi fermare. Ma questo quando succede? A 90 all'ora ci sono questi approcci così? Ma a me sembra una cosa folle, non è possibile una cosa del genere. Lo fanno spesso, alla zona di Bologna, verso Parma, Reggio Emilia, lo fanno spesso. Lo fanno spesso, ma davvero sta dicendo? Sì. Parma, Reggio Emilia, una roba incredibile, guarda, io non ci credo a questa cosa. Vabbè, allora. No, è così. Ha ragione. Gerardo, faccia anche lei un appello per la zanzara lì dalle cose, là dal baracchino. Ce l'ha il baracchino lei? Sì, ce l'ho il baracchino, sì, sono sul canale 5 qua. E facciamo la direzione Roma, di Attiliano. Facciamolo st'appello. Mettetevi in collegamento con la zanzara, che si parla di froci che rimorchiano, che vogliono rimorchiare i camionisti. Intervenite, camionisti, intervenite. Lo devo fare questo appello. È certo. 800 24 00 24, faccia questo appello, su. Attenzione Blecco, a tutti i camionisti, collegatevi su Radio 24, che c'è Cruciani, vi deve dire una cosa. K, io sto in contatto con Cruciani, andate su Radio 24. Vabbè, non solo così però, amico mio, lei deve dire. Positivo, Radio 24, vai, sto in collegamento, vi vuol dire una cosa, Cruciani, vai. La storia dei froci. Ha sentito? Si sono già collegati parecchi camionisti. Bene, dai. Camionisti, raccontateci le vostre esperienze. È vero o no che rimorchiano questi omosessuali? Poi magari c'è pure... Cioè, non è che... No, vabbè, ma quello se ti vuoi fermare, se no tiri dritto e non li pensi. A me pare una cosa assurda sta cosa qua. Sì, ma ci provano, anche quando ti fermi in qualche posto, in qualche parcheggio, vengono vicini, ti guardano. Ma lei invece, lei proprio zero, niente. Ah, io zero, persona seria, io ho tre figli. Seria, non è che non quelli là non sono seri però, scusi, non è che... Vabbè, ma a me non piace, a me piacciono le donne. A lei piacciono le donne, vabbè, ma ci sono i camionisti gay? Penso di sì, come no, a voglia. E quanti ce ne... Perché non c'è un gruppo di camionisti omosessuali? Non lo so questo, però qualcuno c'è. Qualcuno c'è, per forza, sì, sì, che c'è. Vabbè. Senti, signor Cruciani, dimmi, io volevo intervenire. Dimmi, dimmi. Su quelle cose che ha detto quella specie di senatore che ha parlato prima. Perché quella specie? Danna, che ha detto? Che ha detto che si viva, come ha detto, non si naviga nell'oro con 8.900 euro. Non si naviga nell'oro, no, così ha non detto. Non si naviga nell'oro. Noi siamo lontani da casa 7, 8, 9, a volte anche 15 giorni per poco più di 2.000 euro. Sì, dunque? Vuole mandare a fare il culo d'Anna, no? Rispondere a sto signore, dico, ma che sta a dire? Che dice di queste cose? Ah, ma si rende conto che offende le persone che guadagnano 1.200, 1.500, ma quello, fa il ma quello fa il senatore della Repubblica, ha capito? Non è che può ma guadagnare... Ma fa il senatore della Repubblica, però non lo devono proprio dire certe cose. Non è che fa il camionista, come lei, no. Detto con tutto il rispetto, fa un altro mestiere, deve guadagnare anche di più del camionista, o no? Ma deve guadagnare di più, però non deve dire che con 8.900 euro non si naviga nell'oro. Pure questo è vero. Ciao. Carissimo, carissimo, a presto, ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie, buonasera, ciao. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Senti, uno mi scrive su Twitter, no? Manco faccio nome e cognome perché non vale la pena. Ha ragione il professore, lei è volgare, ma è colpa del suo editore, perché lei non è padrone di un cazzo e deve rispettare al pubblico. Cioè, non è padrone di un cazzo e poi dice a me è volgare. Ma chi è? Chi è? Non lo so, suona il telefono. Ah, sì. E la colpa non c'è più, il tripleta non c'è più. Ministro! Non c'è più il tripleta. Pronto? Ministro, buonasera, quanto tempo? Ho fatto dire Giotoriva Cruciani, stavo talmente bene, sento sentito. Ma com'era perché... la canzoncina che stava facendo, scusi? Stavo facendo il tripletino, che poi in realtà è il tripletino, non è che sia il tripletino. Perché lei, ma scusi, ma si occupi di giustizia, di cose serie? C'è la convenza. Ma che giustizia, comunque noi stiamo andando bene, stiamo andando molto bene. Ma chi? Non possiamo chi? Assolutamente lamentare. Ma voi chi? Sono finiti a Roma. A Roma. Ma com'è a Roma? Ma lei si dovrebbe occupare dei carcerati, di queste altre cose. Sì, vabbè, certo che me ne occupo, però abbia pazienza. A Roma batte la Juventus, mica sono cose di tutti i giorni. Ma ha visto ministro quanto è incazzato Conte perché hanno annullato un gol? La fermo immediatamente. Mi fermi immediatamente. La condotta dell'arbitro Tagliavento è cristallina, respingo con fermezza qualsiasi sospetto di congetture inammissibili. Ma come guardi che ci siano, cioè, arbitraggi discriminatori di Serie A e Serie B. Tutto ciò è assolutamente facile. Vabbè, ma non c'è bisogno di fare questa dichiarazione così impegnativa. Comunque ne parlano tutti i giornali, cioè... No, questa è cruciale, abbia pazienza. La solita campagna denigratoria e tendenziosa di una certa stampa grillina. Ma che c'entra il Grillo con la Roma, con la Juventus? Ma dai, su. Comunque, guardi, lei ha vinto il sondaggio Caccia il ministro sul blog di Grillo, la più votata. Grillo non la può vedere, ministro Cancellieri. Lo possono accecare. Ma come lo possono accecare? Ti dico pure una cosa, pure Alfano e Lupi sono messi male. Comunque, guardi, sono in tutt'altra faccenda faccendata. Ma in che senso, scusi? Ah, sta combandosi dello svuota carceri. Beh, guardi che c'è pure la storia del maniaco sessuale a Bologna. Ma perché c'è il maniaco sessuale a Bologna? Ah, quanto mattizza! Ma chi? Quanto mattizza! Ma chi? Come? Il maniaco! Ma come il maniaco? Ma pensavo di fare una cappatina a Bologna! Ma no, ministro! Ma che c'è? Magari fungo da. Ma quello è De Rossi che la fa impazzire, lei, non maniaco! Sì, vabbè, De Rossi, che poi gli dico un'altra cosa, a parte il gran gol di Gervinho. Ecco. Gervinho, però ma perché parla di Torosidis? Torosidis? Sì, Torosidis è abbastanza vettoruto. Cioè, e poi un raro caso, a parte il fatto che De Rossi c'ha barba, quindi è villoso. Villoso, tutti i maschi villosi. Poi Torosidis, non scherza. Torosidis. Sai che faccio un giorno? Un pomeriggio, subito dopo la partita, vado in uno spogliatoio e mi complimento di persona. Vabbè, ma scusi, ecco, ma ministro, ma lei ha una certa età, è sposato da tanti anni, che va a fare quel giorno? Perché soprattutto... posso andare da ministro, ma anche da semplice tifosa, voglio dire, se no gli faccio una telefonata, posso fare una telefonata, ecco. Vabbè, faccio una telefonata. Si occupasse un po' di più del suo ministero. Triplete, non c'è più. Ministro, arrivederci. Arrivederci, forza lupi, sono finiti da bigupi, va. Siamo come lei, cantare, siamo ancora qui, siamo ancora qui. Sono ragazzi, oh, ci sono le, a parte il ministro Cancellieri che si parla solo della Roma, solo della Roma. È l'unica cosa che le interessa. Allora, sulla, mi segnalano via Twitter che in realtà esistono, poi io sono mezzo ignorante da questo punto di vista, perdonatemi, le guide gay alle piazzole autostradali. Le guide gay alle piazzole autostradali, cioè nelle guide gay su internet ci sono, vabbè, quelle sono le piazzole come autostradali, dei ristoranti, no? Segnalano dove si può andare ed sì, evidentemente sì, si può combinare qualcosa, no? Certo. Le eccellenze, sì, sì. Ma perché qual è il problema? Non ho capito, di cosa ti stupisci? Tutto è un mondo di cui ti stupisci? Ti stupisci? No, questo no, questo non mi stupisce, questa cosa qua. Io la sapevo, tra l'altro, questa storia, te l'ho detto, la conoscevo. Allora, Barberino del Mugello, ad esempio, so che è una zona molto frequentata. Samuele Urbino, buonasera. Pronto, oh, Maremma, allora. So sempre quello che fa l'imitazione di Ferenzo quando vado, perché tromba e volendo, ma non ho telefonato per questo, no. Per no. Cosa allora? Neanche per dirvi che quando chiamate Di Pietro portatevi l'interprete, non si capisce una sega, va bene? Non so come si è laureato. Ho telefonato per dirvi che la candidatura di Sgarbi qui a Urbino, no? Sì. Io sono cittadino urbinate dal 2010, prima stavo, sì, a Cassano, ha scatenato un pandemonio nella sinistra che non se ne, vabbè, ma tanto non passerà sta cosa, dai, su. Addirittura Renzi è intervenuto. Comunque, si è candidato coi Verdi. Ora, io dico, che c'entra Sgarbi coi Verdi? I Verdi hanno riempito tutta la zona intorno, di pannelli fotovoltaici, di pale eoliche, che Sgarbi ha detto che sono bruttissime, che deturbano il paesaggio, andrebbero sbattute via. Allora, o ha cambiato idea lui, oppure hanno cambiato idea i Verdi. Gardi non di sicuro. Ma comunque, Sgarbi, che gli frega? Basta che si candida, non gliene frega, sì, niente. Ma Sgarbi è un grande, perché ovunque lui va, fa casino, è un grande. Tutti lì si sono contro tutti, a destra e a sinistra. E comunque, il discorso è un altro, che, cioè, io lo vedrei bene, no, a Urbino, come assessore ai beni culturali, ma non come sindaco. Cioè, lui c'è un uomo, vabbè, di cultura, so, ormai pensa Urbino, che... Ma Urbino è città piccola, ma che c'ha grossi problemi dall'università. Vabbè, ma adesso questo non ci interessa, scusi, con tutto il rispetto di Urbino. Lei sta dicendo che la candidatura di Sgarbi, che poi bisogna fare le primarie, vedi, sta creando, sì, casino nella sinistra. Alla, vabbè, grande. Perché non lo vogliono. Comunque io Sgarbi lo stimo, perché tromba come un fagocero, capito? Altro che parenti. Quello bisogna vedere, ah, ci sono, scusami, ci sono, scusami, cose, scusami, discordanti. Notizia su che c'è in aggiunta, mi segnala una mia amica dottoressa, di cui non posso fare il, sì, nome. Dice, vi sto ascoltando. Vabbè, che c'è? Vabbè, sto ascoltando. Solita, amica tua, no? Sai che è possibile scaricarsi un'applicazione per trovare il gay più vicino a te? Cioè, il gay più vicino, ecco, a te. Vedi che ti interessa. Sapevo che ti avrebbe stimolato l'interesse. Che vuol dire il gay più vicino? Questa mia amica, sì, ecco, vabbè, questa mia amica dottoressa di coach di, mi, no, dice, come si chiama? Che coach tu, surfing, cioè, una cosa, ecco, di esattamente, lì, bravo, cioè, ti puoi scaricare. Vabbè, mica una novità. Tu non lo sa- ma tu lo sapevi? Ma no, ma c'è, cioè, qualsiasi cosa, non mi stupisce adesso l'applicazione, addirittura c'è, cioè, il gay disponibile più vicino a te. Bravissimo, bravissimo. Vabbè, ma bisogna essere iscritti, c'è una comunità, diciamo. Vabbè, no, chiaro, no, è come dire il semaforo verde o rosso, no, dice, beh, beh, è la stessa cosa, c'è il gay più vicino a te. Non so, Cruciani, ti trovi lì a Viale Monterosa, no? Sì. Esci da lì con la tua bella macchinetta enorme, sì, e dici, vediamo dov'è qui il gay più vicino. Sei iscritto a questa community e ti dicono che ad esempio a Buonarroti c'è un gay lì. Ma lì, vabbè, che aspetta. Sì, ma preferirei altre cose. Qui, no, sotto, no, ci stanno sempre pieno di mignotte. Qui a Via Monterosa, altro che gay. Vabbè, ciao, ciao. E che cos'è? E che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Non me molestemo schifo. Non me molestemo. Beh, torna tra noi. Torna tra noi Don Paolo Farinella. Buonasera, Don Paolo. Buonasera. Come andiamo, carissimo? Bene, bene. Oggi è una bella giornata a Genova. Sempre sul pezzo bisogna essere, sempre all'attacco. Certo. Mai indietreggiare, certo, mai, mai. Allora, che succede? Come l'ha visto questo incontro Berlusconi-Renzi? Già immagino le sue parole fiammeggianti. Beh, vuole che glielo dica... Chiaramente, papale, papale. Liturgicamente? Sì, ma vediamo, sentiamo. Come le viene? Un cesso. Ah, un cesso, direttamente, un cesso. Cioè, sì, questo incontro è stato un cesso. Sì. Ma per quello che ha partorito o per il solo fatto che c'è, ma, stato? Guardi, se già sei mesi fa ci sono diversi miei amici che sono del PD, sì, che non mi salutano più, perché sei mesi fa, sì, avevo detto, quando sei mesi, sì, fa, tre anni fa anche, quando ha cominciato a salire sulla scena il Renzellum, il Renzellum. Questo qui avrebbe consegnato il PD a Berlusconi. Sì. Questo formalmente è avvenuto, per, sì, cui alle prossime elezioni noi vedremo Berlusconi candidarsi in tutte le circoscrizioni europee con nelle liste del PD. Ah, lei dice, quindi, lei dice si candida. Sei il vero segretario del PD. Ma no, non esageriamo. L'ha incontrato per fare le riforme. Su, dai. Ma che scherza. L'ha incontrato perché adesso la prima legge che faranno sarà, e infatti la cancelliera l'ha già anticipato. Cosa? Sarà l'amnistia o queste cose qui per rendergli il gioco facile e candidarsi all'Europa. Intanto il PD si dividerà in due perché la sua vocazione è proprio questa di autocastrazione. Sì. Ma che cosa ha partorito? Siccome l'incontro è stato un cesso, cosa ha partorito questo incontro? Una porcheria. Proprio per quello che ha partorito, per la fogna che ha partorito, perché un pregiudicato, un condannato in terzo grado, sì, che dovrebbe essere o in galera o da qualche altra parte, diventa padre della patria. Ma ha visto, però gli mette la Costituzione in mano. Ha visto, era arzillo Berlusconi, era carico, o no? Infatti, sfido io, non è mica scemo Berlusconi. Berlusconi sarà pazzo, ma non è scemo. Me l'ha visto carichissimo, cioè io l'ho visto molto. È chiaro che è carico, ha detto che c'è, che ha trovato Renzi come quello che non sono riusciti a fare gli altri, appunto. È riuscito a fare lui, e quindi va tutto nella direzione sua per forza. Magari riesce, no? Si è rinvigorito. Perché guardi che anche le parole hanno un significato profondo e sono pietre. Ma come l'ha visto questo incontro lei? Renzi ha detto che c'è stata una profonda sintonia. A lei le fa schifo Renzi? A lei le fa schifo Renzi, don Paolo? Ah, certo, questo io non come dire, ormai siamo il PD, l'ex PC, sì, l'ex Berlinguer è diventato un democristiano doroteo, Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, ma poi invece s'appoggia. Don Paolo Farinella, prete della diocesi di Genova, con noi un mito, una leggenda. Don Paolo, lei... Don Manette. Perché Don Manette? Che c'entra Don Manette? Perché lo chiami Don Manette? Perché metterebbe le manette a chiunque? Ma non è vero, non è vero, non è vero. Anche Renzi ora. Basta osservare la legge. Scusi. Anche Renzi ora è diventato. Lei come lo chiama? Il Berlusconi come lo chiama? Il P di Arcore, com'è che lo chiama? Come, scusi? Com'è che chiama Berlusconi lei? Ah, no, l'ho chiamato in tanti modi. Che ne so, il porco di Arcore, per esempio, com'è che lo chiama? Sì, ma anche Priapo. Eccetera, eccetera. Ce l'ha tutte. Priapo che vuol dire? Ma scusi, secondo lei Berlusconi fa intensa attività sessuale? Ma se mi dicono che c'abbia il montacarichi. Come il montacarichi? Sì, c'ha il montacarichi incorporato. Vabbè, adesso dicono, sono voci. Adesso, io non ho, adesso è fidanzato. Non ho visto, adesso è fidanzato. Certo, è malato. Malato in che senso, scusi? Certo. Ah, di sesso, dice lei. Certo, perché vabbè, ormai è fidanzato, don Paolo. È ossessivo, sì, con Dudù lì. No, Dudù, che c'è, mica fa coi cani, mica fa coi cani. Sì, dopo. Sì, vabbè, ma quelle sono... Quelle sono che fa una cosa di... Lui e lei la furba in quel caso. Cioè, lei dice che è tutta una cosa di facciata. Sì, si prende un sacco di soldi, insomma. Penso che penserà al suo futuro, alla sua vecchiaia. Però, scusi, com'è la scena di Dudù che lecca i piedi a Berlusconi? Come la immagina questa cosa qui, lei? Guardi... Ma non me lo faccia nemmeno immaginare, perché è proprio da pervertiti. Sì. Vabbè, da pervertiti, adesso il cane che poverino sta lì. Sì, infatti, adesso hanno preso anche il cane. Questa è sevizia di cane in luogo pubblico. Questa? Sevizia di cane in luogo pubblico. Sì, certo, dovrebbero rispettarlo. C'è la Corte Costituzionale che dice che anche gli animali devono essere rispettati. Questo lo usano come uno scintilletto, come una cavia, insomma. Non c'è dignità per distrarre un po' le masse. Le masse. Lo stanno seviziando, dice lei, stanno seviziando il cane. Vabbè, don Paolo, perché non è andato a tirare un po' di roba anche lei davanti lì alla sede del Partito Democratico? No, ci avrei rimesso anche le uova. Cioè? In tempo di crisi che c'è, meglio fare una frittata, perché non merita nemmeno quelle. Comunque, alla fine li fotterà, secondo lei, Berlusconi fotterà Renzi? Sì, sicuro. sicuro, sicuro. L'ha già cominciato perché era già fuori gioco. Sì. Adesso lui dice: voglio vedere se un giudice metterà le manette ad un padre della patria. Quindi il suo obiettivo l'ha già raggiunto. Vabbè, ma adesso ha voglia ancora la modifica della Costituzione, c'è tempo, c'è tempo. No, va bene, c'è tempo, però intanto lui è ritornato di nuovo in gioco, mentre non... Vabbè, se riescono a fare la legge elettorale, meglio, Don Farinella. Insomma, vabbè, Don Farinella, ma non in questo modo, non a qualsiasi prezzo. Scusi un attimo, sarebbe stato meglio andare a votare con la legge come l'ha lasciata la Corte Costituzionale. Ma perché lei non si candida alle elezioni? Si toglie la tona che si candida alle elezioni, Don Paolo? Perché mi devo togliere? Io ci sto bene, me l'hanno proposto diverse volte, ma io ho detto sempre di no. Sempre di no, Io preferisco fare i prezzi e nello stesso tempo. Come dire, non è da tutti rinunciare a 20.000 euro al mese. Ma scusi un attimo, chi gliel'ha proposto? Rifondazione Comunista? Questo non glielo posso dire. Non ce lo può dire. Comunque l'immagine del pregiudicato che entra dentro la sede del PD fa un brutto effetto. Certo, il pregiudicato che rientra. Poi si renda conto che questi due sono signor nessuno, sono chi? Due persone. Beh, insomma, Renzi e Berlusconi, tanto. Signor nessuno. Vabbè, anche Renzi è un segretario di un partito, ma è una persona privata. Fanno una riforma, tanto è vero che per avere valore deve essere presentata da parlamentari. Vabbè, ho capito, ma c'è una privata, il segretario di un partito, sindaco di Firenze, voglio dire. E poi siamo in una democrazia parlamentare rappresentativa. Vabbè, ho capito. Vogliono comandare loro due, mentre in Parlamento ci deve essere sì la governabilità. Insomma, una coppia di fatto, Don Paolo. No, sono più che una coppia di fatto. Questo è più che una coppia di fatto. Addirittura, un matrimonio vero e proprio. Sì, questo è proprio un matrimonio proprio zingaresco. A presto, Don Paolo, a presto. Grazie a voi. Ciao. Giuseppe Piacenza, imperversano i camionisti su questa storia dei gay. Giuseppe. Sì. Allora? Ciao Lorenzo, ciao Cusciani, ciao, per caro, forza. Ciao. È perché ho da dire la mia anch'io, Allora? Allora, io faccio molto la 7. Praticamente la Milano-Genova, lavoro con i container, quindi vado sempre nei porti. E praticamente, allora, quell'autostrada lì, il primo parcheggio dopo i caselli di Milano, direzione Genova, è tutto terreno loro. Ma ti dico, se te passi da lì, vedi 10 macchine, 12, parlano tra di loro, perché ormai sono tutti quanti amici. Io, guarda, una volta mi sono fermato lì perché purtroppo è capitato che dovevo fare la mia sosta. Quando mi sono fermato lì ho visto come gli zombie, cioè mi arrivava sotto uno, vicino quell'altro, quello mi sorrideva, quell'altro, quello che... Vabbè, ma... Sono dovuto ripartire. Ma che male fanno? Quindi, non fanno nessun male. Si offrono, no? Poi se lei vuole bene, se lei non vuole chiude. Evidentemente ci sarà una clientela, no? Ci sarà una merito sicuro. Ma certo, ecco, è qua vi volevo io, ragazzi, vi volevo qua. Se loro sono sempre lì, perché sono sempre lì. Io ormai ci ho fatto caso, vedo anche le stesse macchine che sono lì. Ma che succede lì? Che fanno lì? Alla fine fanno sesso con i camionisti, dai. Fine fanno sesso con i camionisti, mi duole dirlo. Cioè i suoi colleghi quanti soldi beccano a prestazione? Così, più o meno. Ecco, io devo essere sincero, ne conosco uno che mi diceva che lui si faceva dare 50 euro al colpo. 50 euro alla botta per fare che? Per fare che? O a 90 gradi oppure il cappottino di saliva, come si dice in italiano. Addirittura? Che schifo. Sì. Mamma mia. Ma cos'è il cappottino? Lui prendeva 50 euro alla botta, tanto che mi aveva detto anche a me, mi ha detto guarda, ti fermi là in quei parcheggi e ti fai qualche soldino. Guarda, a me non mi interessa perché io sono all'antica. A me ancora mi piace la farfallina. Vabbè, quello che c'entra, quella è una questione di denaro. Se lei ha bisogno, magari questo collega aveva bisogno. Vabbè, Giuseppe, Eugenio da Imperia, buonasera. Ciao. Senti, io sono fermo qui prima dell'uscita di Ovada, sull'autostrada. Sì. Si è fermata una macchina, mi sta facendo i fari adesso, guarda, in diretta. Dai, fermati, fammici parlare. Fermati. No. Fermati, comunque, Eugenio, che... fermati. No, guarda che... Non sto scherzando, non puoi neanche fermarti a farti dire che ti vengo intorno. Ma non è vero. Ma facci sentire la voce di questo, non fai finta. Ma come non è vero? Ma si vede che non girate la notte. Ma fermati, cosa... Eugenio, ti devi fermare. Così mi arriva la polizia dietro e mi fa ancora la multa. Ma che c'entra la polizia? Perché uno non si può fermare alla piazzola, scusa. Fermati alla piazzola, fai finta di starci e mi fai sentire tutto, no? Fammi sentire... ti fanno la lingua. Ma che fanno la lingua? Mica contratta un attimo, dai. Contratta un attimo il prezzo e poi te ne vai. Ci mando un parente, ci mando un parente. Ma, chi, quant'è? Ma ci sei tu in macchina, ci sei tu. O mica fa il camionista, perverso. Dai, Eugenio, fermati, dai. No, dai, comunque la verità è... Allora, qualcuno deve avere il coraggio di fare una cosa del genere per la Zanzara. Assolutamente, tra ormai domani, perché sono le 20:43. Domani un camionista mi deve far... Voglio la prova definitiva, so che ci sono stati dei servizi, delle Iene, non me ne frega niente. Voglio la prova... che davvero c'è un approccio continuo da parte di omosessuali altrimenti ai camionisti sulle autostrade, altrimenti sono illazioni, ragione Parenzo. Eugenio, allora come va là? Sempre qua, non si è spostato. Ma fermati, facci sentire la voce. Ma che paura hai, facciamo a credere a questo? Cioè, è importante per l'informazione saperlo. Beh, è importante anche sapere che Povia, il cantante Giuseppe Povia, ecco, questo Giuseppe questo, Povia dice che domani viene ripreso. Io lo adoro Povia, Non proprio per niente. Io lo adoro. Allora, lo stesso che cantava Luca era gay, ma Giuseppe era gay, ma genio, adesso sta un genio con lei. Assoluto, a me piace tantissimo. A me no. Dice che sì, i terremoti sono causati anche dal fatto che la Terra è popolata da 7 miliardi di persone che si muovono. E questa potrebbe essere un'altra causa, cioè il fatto che 7 miliardi di persone si muovono farebbe scatenare i terremoti. Qual è il problema, scusa? Ma stai parlando seriamente? Cioè no, siamo seri? Ma evidentemente l'ha letto da qualche parte. Vabbè, domani ci aggiorneremo su questo. No, ma di che stiamo parlando? No, ma stiamo parlando di cose serissime. Franco da Firenze, Franco. Franco? Pronto? Allora dimmi. Ecco, niente, io sento in continuazione che la sua incredulità nella... No, ma non è l'incredulità, io penso... Però è vero, è così. Allora, io sono un trasportatore di Prato, sì, e ho frequentato parecchio il nord, ma comunque sì, succede da tutte le parti. Sì. All'imbrunire succede di queste cose. C'è quello che ti viene davanti con la macchina, magari verso le 9 dopo cena, sì, 9:30, che l'autostrada comincia a essere un po' più sgombra, cominciano, ti mettono davanti e ti fanno gli stop. Sì. Io all'inizio, 20 anni fa, quando ho preso la patente, disse all'amico mio, quello lì non gli funzionano gli stop. Ma ha detto l'amico mio, se ci fermiamo... vedi che stop ti fa funzionare. La cosa è... Ma mica sarà un pericolo una cosa del genere? No, fanno appena toccano il pedale del freno e si accende gli stop. Ma come lo fanno sto approccio? Come lo fanno? Niente, si avvicinano lentamente sulla corsia di centrale, sì, noi siamo in corsia di marcia perennemente, sì. Sì. E niente, l'altra volta su Modena eravamo in due autisti perché abbiamo fatto un viaggio lungo. Ma di notte? Sì, allora? era sulle di notte, 9:30 così. Vabbè, 9:30 e si è avvicinato piano piano per far vedere con un cuscino sul lato del passeggero che aveva un uccello mega galattico. Addirittura. Cioè, faceva invidia veramente a qualsiasi scultore. Era un uccello. Ma come ha fatto lei a guardarlo così bene? Scusi, come ha fatto? Lei anche maiale che lo guarda, però. Mi ha chiamato e mi ha detto: affacciati di qua e vedi che cosa c'ha questo in macchina. Ah, il tuo collega. Sì, il mio collega. Lei non lo può vedere con la macchina. Cioè, se lei va vicino a dei camion in autostrada, sì, vedrà che quello che supera, prima o poi, vedrà degli stop che fanno sì e no. Sì. Vabbè, e no. Ma queste sono brava. Comunque, a Modena mi sono fermato diverse volte allora? Per motivi di stanchezza, perché nei parcheggio si avvicinano e vengono e ti chiedono, sono molto gentili. Io non ho mai visto allora? Gente con cattiveria. E addirittura se gli prometti qualcosa, che poi magari dici, guarda, vedremo, loro ti fanno anche la guardia al camion. Ti guardano se ti aprono le porte dietro. E vabbè, quello... Comunque è vero, e funziona così. E niente, se vai a far pipì o ti fermi... Te li vedi arrivare e rimani un attimo. Vabbè. E poi dico un'altra cosa: quando sono come a quel signore Ovada che si ferma, hanno tolto sulla retromarcia le vetture, gli hanno tolto i fari bianchi di retromarcia. Quindi la macchina comincia a venire indietro verso il camion, che se uno si appisola sullo sterzo, tu non vedi la macchina che viene indietro, ma te la trovi sotto al muso del camion. E poi niente, ti bussano, ma niente da dire di che ti assalto. Ho capito perfettamente. Andiamo ad Olbia, Giorgio, buonasera. Sì, salve. Allora? Io sono un vostro nuovo radioascoltatore da circa 2 settimane a questa parte. E ho piacevolmente scoperto che la vostra è una trasmissione a forte richiamo sessuale. Ma no, dipende, ogni tanto, dai, adesso non esageriamo. Sì, sì, dai, dai, no, no, cioè, ricordo infatti le sveltine con un coetto interrotto, in quanto le persone li ascolto chiamano tutte in tira, tanta voglia di dire, tante cose in una manciata di secondi, e poi tutti in un crescendo veloce, veloce, veloce, poi arriva la pubblicità, il TG, la borsa, è tutto a fare in culo, insomma, non si parla più di nulla, e viene a morire. Vabbè, Giorgio, allora... Interrotto. Sì, niente, volevo esprimere qualcosa circa il Ministero dell'Integrazione, sì, e la chiusura delle prossime del Senato, alla quale non credo sinceramente. Per quanto riguarda il Ministero dell'Integrazione, penso che per me stesso partecipo e premetto il fatto che non sono razzista, come potrebbe dire il suo collega di Vabbè, fianco, però vada al sodo, Giorgio, che dobbiamo pensando. Concludere noi, vada al sodo. Sì, sì, sì, credo che il Ministero dell'Integrazione non debba già esistere. Vabbè, non deve esistere il Ministero dell'Integrazione, anche secondo me non dovrebbe esistere, anche secondo me. Non dovrebbe esistere. C'è anche in Francia, ma non mi interessa, non dovrebbe esistere. Non mi interessa. No, ma non mi interessa il Ministero dell'Integrazione. Ma no, ma io lo dico con rispetto, ma anche a che serve? È un grande, come l'industria, no? Come lo sviluppo economico. L'industria è un'altra cosa, ma c'entra, dai, l'integrazione. È un tema della modernità di oggi. Ma che perché bisogna fare un ministero per ogni tema della modernità, sarebbe finita. No, ma è un tema che riguarda questo paese. Devo chiudere, Antonio da Napoli. Sì, certo, è un tema, ma non c'entra niente per fare un ministro, dai, non c'è. Roberto da Roma, velocemente. Roberto. Sì, ciao Cruciani, ciao Valerio. Allora, altro camionista o no? No, altro camionista, no, sono tassinaro io di Roma. Vabbè, tu abiti a Roma, vero? No, no, a Milano, dimmi Roberto. Ah, no, perché se andavi a Villa Borghese, sì, era pieno di froci, se tu con Parenzo vai a pisciare a Villa Borghese a mezzanotte. Ma questo che c'entra adesso? Come che c'entra? Per farti capire che è vero che questi proci vengono e si rompono i coglioni. Ma no, quello si parlava dei camionisti, non delle persone così, degli approcci che ci possono essere in un parco, scusami Roberto. In un parco? Tu vai sulla Roma Fiumicino, vai all'autogrill sulla Roma Fiumicino, vai a fare una pisciata sulla Roma Fiumicino. Ma che c'entra? Ma io lo faccio a casa mia, perché devo farlo sulla Roma Fiumicino? Ma lei sta dicendo che importunano anche i tassisti? Tutti te guardano dalla testa ai piedi quando stai a pisciare, te guardano. Ma dove? Lei dove piscia? Io piscio a casa mia oppure in un bagno pubblico? Roma Fiumicino, io c'ho allora accesso dentro al taxi, Cruciano. Ma che fai? Non capisco, sulla Roma Fiumicino tu vai, a un certo punto ti fermi con una ti fermi, vai a pisciare, c'è tutti quanti questi qua che ti guardano dalla testa ai piedi. Vabbè, ho capito. Ma questo sembra un mondo veramente di malati. Ma non può trattenerla per altri 20 metri, che ne so, andare in bar qualunque. A domani, 18:30. Ciao. Ma che è la cosa, aspetta, come si chiama? Il programma Radio 24? È una trasmissione bellissima, con tutte le cazzate che dicono, però è piacevole, guardi, è una cosa piacevole. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Radio 24. La passione si sente.